La proporzione della ricetta è 3 parti di farina e 2 di acqua. Se usate 15 kg di farina, quanta acqua dovete aggiungere?